Dialogo quarantesimo, raccontò Rafid bin Khudaij. Un giorno fu chiesto all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, qual è il guadagno buono? Rispose, è ciò che l'uomo guadagna con il lavoro delle sue mani e ciò che guadagna con una vendita onesta.